Garam Masala, il suono del clubbing tra down tempo e up tempo. Garam Masala, Funk Soul, Afrodisco Classica, Re-edit House e Deep House. We'll be right back. Chiara Masala.